Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento come sapete tutti i sabati, tutte le domeniche per sfogliare insieme i settimanali, i mensili italiani, anche stranieri, curiosare alla ricerca di qualcosa da leggere, qualcosa magari da leggere approfittando del fine settimana. Voglio cominciare con una cosa un po' leggera, in questo caso una segnalazione più che una segnalazione di lettura, una segnalazione per la nostra memoria. Sono giorni in cui si parla molto di canzoni, ovviamente questa è una settimana in cui abbiamo parlato molto di canzoni, abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo. Vanity Fair fa una scelta un po' inattesa parlando invece dei Grammy. I Grammy sono un altro tipo di premio che assegna appunto la canzone dell'anno. Forse non tutti sanno che nel 1959 la canzone vincitrice del Grammy fu Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, quindi più nota poi anche come Volare, ma il titolo originale è appunto Nel blu dipinto di blu. E infatti lo stesso Luca Sofri, che segnala un po' di questi vincitori anno per anno, dice: capace che non lo sapevate, la canzone italiana più famosa del mondo è stata anche la prima vincitrice dei Grammy, miglior canzone e miglior disco. Tra l'altro, per aspettare una vittoria italiana bisogna arrivare fino al 2006, perché la seconda pop star italiana a vincere, leggo sempre da Vanity, sarebbe poi stata Laura Pausini, con però una canzone cantata in spagnolo. Come sapete, spesso Laura Pausini incide sia in italiano sia in spagnolo per il mercato appunto di lingua spagnola, quindi Spagna e anche Sud America. Via via si ritrova in questa piccola carrellata che ci viene presentata da Vanity Fair alcuni brani molto, molto importanti, molto noti. Ad esempio, nel 1971 questo premio fu assegnato alla bellissima canzone di Paul Simon, Bridge Over Troubled Water, che appunto, come dice lo stesso Sofri, apre una sorta di successione stellare di canzoni vincitrici dei Grammy. Poi ci fu Carole King, e poi ancora andando avanti negli anni, nel 79 toccò a Billy Joel, e nell'84 ai Police con Every Breath You Take, qualche anno prima, nell'81, aveva vinto Christopher Cross con Sailing. E nel 62, andando un po' più indietro negli anni, quindi a beneficio magari degli ascoltatori non proprio giovanissimi, Moon River, cantata da Andy Williams, era il capolavoro di Colazione da Tiffany, composto tra l'altro da Henry Mancini, che è poi l'autore della Pantera Rosa insieme a Johnny Mercer. Queste le indicazioni musicali, non di Sanremo quindi, ma dei Grammy, che vengono presentate da Vanity Fair questa settimana. Passiamo a un argomento decisamente meno leggero, e che troviamo sempre su Vanity Fair, che ci presenta il libro e una conversazione, un'intervista con Paola Mastrocola. Paola Mastrocola è un'insegnante, ma è anche un'autrice, e in questa intervista e nel suo stesso libro, che si intitola Togliamo il disturbo, propone la libertà di non studiare. Che cosa significa libertà di non studiare? La tesi, sostanzialmente, a volerla malamente riassumere, è: non è proprio poi detto che tutti si debba arrivare a un percorso di liceo, a un'istruzione superiore, a una laurea. Non è poi detto, verrebbe da chiosare, anche perché i dati sulla occupazione dei laureati nel nostro paese non sono così confortanti, e quindi può essere anche utile magari puntare invece su alcune abilità di tipo più tecnico o magari anche più manuale, senza alcuna vergogna. La tesi così esposta, così come ve l'ho riassunta, sembra molto accattivante. In realtà il lavoro della Mastrocola è un atto d'accusa molto duro nei confronti della scuola italiana, un atto d'accusa che viene poi dall'interno. Spiega Isabella Mazzitelli, che firma appunto su Vanity Fair questa conversazione con Mastrocola, Togliamo il disturbo, brillantissimo nuovo libro di Paola Mastrocola, scrittrice e insegnante di lettere in un liceo scientifico torinese, ha un sottotitolo molto esplicativo, saggio sulla libertà di non studiare, e nelle prime pagine L'autrice virgoletta un suo studente quindicenne mentre spiega in classe, cerca di spiegare in classe, il mito di Orfeo. Ne viene fuori un pezzo di involontario cabaret. La scrittrice spiega che, vista dalla sua cattedra, c'è una storia di declino della scuola e di, dice, imminente fallimento della sua missione culturale, diluita per 40 anni nell'acqua fresca di scelte al ribasso e riforme scellerate, per cui oggi rimane forse solo una flebile traccia dell'obiettivo primario della scuola, che è appunto l'istruzione attraverso lo studio. Lo sguardo dell'autrice è particolarmente pessimista, dice, ci aspetta la progressiva desertificazione dei luoghi e delle menti, quindi urge una presa di coscienza, una reazione da parte di tutti, anche degli studenti, che si rendano conto che li stanno fregando. Perché? Perché abbassando l'asticella per rendergli invisibile l'ostacolo, alla fine li si fa rovinare a terra. Mentre appunto si accinge a intervistare l'autrice Paola Mastrocola, la giornalista Isabella Mazzitelli scrive: mi viene in mente una maestra di mio figlio che ha così chiosato su un compito assegnato: risotto ai funghi come complemento di termine. Ecco, uno svarione di non poco conto, commesso dall'insegnante. Poi dice: poi ci sono stati 9 insegnanti di matematica dalla prima alla terza elementare, e oggi questo mio figlio è convinto che la matematica quindi non fa per lui. Quella di inglese che non parla mai inglese in classe, e così via. E passiamo alla conversazione. Allora dice: nel primo capitolo le chiedono, lei racconta che a inizio anno su 25 studenti di prima liceo neanche uno ha preso la sufficienza al test d'ingresso in italiano. Risposta di Paola Mastrocola: è così, e se è per questo capita anche che a febbraio non tutti abbiano capito come si scrive ce n'è, e che nei dettati di ortografia 2/3 prendano 2. Andiamo giù pesanti? Sì? Allora diciamo che nei precedenti 8 anni di scuola, quindi prima di arrivare al primo anno di liceo, questi ragazzi hanno fatto altro: il gioco, il teatro, le favolette, invece di fare cose poco gratificanti, mnemoniche, pedisseque, ma indispensabili. E oggi io vorrei che qualcuno, parla qui l'insegnante chiaramente, qualcuno mi dicesse cosa devo fare, perché poi al liceo con queste premesse o si spalanca un abisso oppure si abbassa il tiro. E è quello che ormai faccio io: in 2 anni cerco di rimettergli un po' a posto l'italiano. Prosegue anche dicendo che la tendenza pericolosa, a suo dire, è quella di centrare il discorso unicamente sul mondo del lavoro, sul mito della tecnica, sul metodo, sulla competenza. Spiega: c'è una conoscenza astratta che non è immediatamente utilizzabile, ma è immensamente utile. La letteratura, la filosofia, il latino, Dante è utile? Io credo di sì, e a chiunque. È ovvio che dobbiamo dare ai ragazzi una formazione che serva, ma stiamo costruendo una scuola che non fa più cultura, che li aiuta sì a passare i test, quando invece sarebbe necessario, se vogliamo bilanciare internet, Wikipedia e compagnia, studiarsi Torquato Tasso. E arriviamo alla tesi finale. Allora dice, nel suo libro appunto, è il saggio sulla libertà di non studiare. In che senso? Spiega la Mastrocola: bisogna che la scelta della scuola sia più consapevole, e naturalmente che questa scuola pantano, uguale per tutti, sia diversa. Tutti al liceo? No. È giusto che ci vada solo chi vuole sgobbare. Alziamo il livello delle scuole tecniche e professionali, che non siano una scelta dequalificata, ma diventino appetibili anche per le classi alte, che non facciano vergognare l'avvocato quando dice che suo figlio fa il falegname. Perché? Perché fare il falegname può essere appagante come fare il chirurgo. Io ho famiglie di professionisti con ragazzi che non vogliono aprire un libro. Beh, è un loro diritto. Non tutti devono amare Kant. Che ci sia allora un'opzione manuale, pratica, con sbocchi universitari ovviamente, ma preceduta da un'ottima scuola di base per tutti. Questa è la tesi appunto che trovate su Vanity Fair. Abbiamo solo un minuto prima di fermarci per le informazioni sul traffico. Allora, visto che andiamo in argomento con il traffico, vi voglio segnalare che su Storica questo mese c'è una bella ricostruzione delle strade, cioè la costruzione delle strade in cui soprattutto eccellevano i romani, e questo forse lo sappiamo un po' tutti, ma anche gli Incas, cioè gli inventori delle strade così come le conosciamo oggi sono proprio i romani e gli Incas. Tra l'altro ve lo dico così: così come piccolo aperitivo prima di fermarci appunto per il traffico. La stessa parola strada, che poi suona come street in inglese, come strasse in tedesco e così via, deriva da un termine romano che era appunto vie strate, che stava a indicare bisogna fare una via a strati per costruirla bene, per costruirla robusta e soprattutto duratura, e da questo strate poi è derivato il nostro strada e così via anche altri termini in altre lingue. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Allora, vi stavo parlando delle strade, abbiamo sentito parlare di strade anche adesso, ma ve ne stavo parlando nel senso della storia delle strade, perché su Storica di questo mese c'è appunto una bella ricostruzione della costruzione delle strade. La presenta Massimo Bozzo, il titolo è Romani e Incas, gli inventori delle strade, perché i primi, almeno per quanto ci riguarda, furono gli Etruschi, ma fu con i Romani che la tecnica della costruzione delle strade raggiunse livelli ineguagliati, un primato che nel resto del mondo fu toccato solo dagli Incas. Vi leggo qualche brano per farvi capire anche la capacità di costruzione che era stata raggiunta da queste due popolazioni. Anche se gli storici, comincia Bozzo, hanno accertato che in epoca greca già si costruivano strade lastricate, alcune avevano addirittura dei solchi longitudinali, quindi dei solchi per il lungo, che servivano da sede per le ruote dei carri, erano un po' come dei binari fatti in pietra, scavati nella pietra. Furono prima gli Etruschi e poi i Romani a realizzare vere e proprie reti stradali, che avevano poi la lunghezza di migliaia di chilometri. Le tecniche di costruzione messe a punto già 2500 anni fa hanno permesso ad ampi tratti di questa rete di essere ancora oggi percorribili. Solo la rete stradale Inca dell'epoca precolombiana, quindi prima scoperta dell'America per noi, è paragonabile a queste reti di comunicazione. Questa rete disponeva di percorsi di oltre 5.000 chilometri che riuscivano a superare delle quote di anche 5.000 metri. È il più avanzato e esteso sistema viario del continente americano. Poi, leggendo qua e là appunto in questo articolo di Storica, si imparano anche delle cose. Ad esempio, forse non è così noto che gli Etruschi avevano già costruito una Tirreno Adriatico, e ne parla tra l'altro un navigatore greco che riporta l'esistenza di una vasta rete di comunicazione etrusca, soprattutto di una via larga 7 metri, così scrive, che in soli 3 giorni consentiva di andare da un mare all'altro. La prova di questa affermazione è nota però solo dal 1997, perché è stato solo in quell'anno che, scavando a pochi metri dall'autostrada Firenze-Mare, è venuta alla luce proprio un'infrastruttura viaria dell'epoca etrusca tardo-arcaica, che è proprio fatta da massi, ciottoli e ghiaia che furono giustapposti a secco. Una strada esattamente larga 7 metri, così come aveva scritto il navigatore greco Scilace di Cariano, e che era stata costruita con una tecnica che è stata poi adottata dalle strade consolari romane. La costruzione degli Etruschi appunto fu ripresa dai Romani. Per quanto riguarda invece tutt'altro continente, cioè gli Incas, come vi dicevo, costruirono la più grandiosa strada del mondo e anche la più lunga. Passa per vallate profonde, montagne altissime, su cime nevose, cascate d'acqua, attraverso la roccia viva, così scrive. Queste erano le parole, con questo tratto riporta le parole che scrisse un soldato spagnolo che nel 1548 descriveva questa ampia strada lastricata di pietra che oggi è nota come Camino Real. Partiva da Quito, che oggi è la capitale dell'Ecuador, attraversava Cuzco, percorreva 5200 chilometri fino ad arrivare alla odierna città argentina di San Miguel de Tucumán. E poi c'era, oltre a questa via nell'entroterra, un cammino verso la costa, nei pressi della costa, si chiamava appunto El Camino della Costa, o meglio lo abbiamo chiamato noi poi con gli spagnoli il Camino della Costa, ed era una tratta costiera, anche questa non aveva nulla da invidiare alle strade che hanno costruito i Romani, era lunga 4.000 chilometri e tra l'altro collegata al Camino Real con piccole strade secondarie. In totale il sistema viario Inca disponeva di circa 40.000 chilometri di strade, la maggior parte avevano larghezze comprese tra gli 1 e i 4 metri. E poi naturalmente c'è tutta la storia, ma per questa vi rimando più puntualmente a Storica, c'è tutta la storia e la tecnica soprattutto di costruzione dei Romani, che utilizzavano appunto anche degli specialisti in costruzione di strade direttamente al seguito dell'esercito, perché appunto via via che l'esercito avanzava nella sua conquista vista venivano anche costruite le vie di comunicazione che poi diventavano stabilmente un patrimonio per tutti, anche per i commerci e per migliorare appunto il rapporto con la popolazione. Vi ho già detto da dove viene appunto il nostro strada, da questo termine vie strate. Tra l'altro vie strate dà il nome anche servito poi anche per l'inglese street, per il tedesco Strasse, e questo fa appunto capire quanto di ancora della capacità romana di costruire le strade ci sia ancora visibile tutt'oggi, spesso su percorsi che sono stati ricalcati su quelli tracciati appunto dall'esercito romano via via che avanzava e via via che il genio, così si sarebbe poi chiamato in epoca moderna, provvedeva a costruire le infrastrutture necessarie. Direttamente collegato, se volete, a questa vicenda di strade e di spostamenti, sempre su Storica, proprio poche pagine dopo, una vicenda che invece riguarda i pellegrini. Come sapete, il pellegrinaggi anche nell'epoca moderna, ma soprattutto nell'epoca medievale, erano molto praticati. Si facevano queste marce a piedi che duravano mesi verso Roma, verso Gerusalemme, verso Santiago di Compostela, e c'era il problema anche di come alimentarsi. Allora, le ricerche storiche che sono state fatte hanno mostrato che i pellegrini avevano via via elaborato un'alimentazione che era un'alimentazione che ha molte somiglianze con quella che adesso viene praticata dagli sportivi. Ad esempio, fermandosi presso i conventi, che erano un po' le varie tappe che scandivano queste marce, queste lunghe marce a piedi, trovavano delle zuppe, dei pancotti. Spesso questi pancotti venivano fatti con pane raffermo. Però bisogna sapere che il pane raffermo ha una crosta ricca di maltodestrine. Poi c'erano piatti che amalgamavano l'acqua di cottura delle verdure, che è ricca di sali minerali, e in questo modo così idratavano il corpo. Questi sono meccanismi che sono stati poi studiati e migliorati proprio per alimentare adeguatamente chi fa oggi uno sforzo come uno sportivo professionista. Infatti i brodi, spiega Maurizio Landi in questo articolo su Storica, quando sono troppo annacquati finiscono per sottrarre sali minerali al corpo umano. Se sono troppo salati, naturalmente sottraggono acqua, quindi stimolano la sete. Bisognava quindi trovare il giusto equilibrio. Quindi piatte, zuppe calde fatte appunto utilizzando spesso del pane raffermo, utilizzando l'acqua di cottura delle verdure, in modo da garantire un apporto di vitamine adatto a chi poi doveva affrontare questi lunghi viaggi. Stavano in viaggio per dei mesi, non avevano normalmente i pellegrini arnesi per cucinare, stoviglie, portavano per lo più una zucca vuota, una scodella che gli serviva e una borraccia giusto per le necessità minime, ma poi dovevano via via fermarsi lungo il tragitto. Tutto questo più in dettaglio su Storica di febbraio. E allora, dagli alimenti di un'altra epoca agli alimenti, anzi meglio alle materie prime di questa epoca, su Panorama di questa settimana Sergio Romano nella sua rubrica L'Europeo segnala quello che forse i lettori del Sole 24 Ore ricordano di aver già visto sul nostro quotidiano, cioè l'importanza dell'innalzamento dei prezzi delle materie prime nelle rivolte a cui stiamo assistendo proprio nei paesi arabi, specialmente in Egitto. Ricordo infatti Romano, c'è stata una brusca impennata dei prezzi delle derrate alimentari, il prezzo del grano è cresciuto nel 2010 del 50%, il pane nei negozi egiziani costa il 25% in più di quanto costasse solo un anno fa, e quindi in questi paesi come Tunisia ed Egitto questo aumento delle materie prime ha scatenato naturalmente il malcontento, un segnale che non vuole certo sminuire la portata, se volete, culturale di questi cambiamenti, ma come spiega lo stesso Romano, le rivoluzioni hanno sì una matrice ideologica, ma le rivolte poi scoppiano generalmente quando c'è la fame che richiama nelle piazze insieme agli studenti universitari il popolo minuto, i disoccupati, gli operai e diciamo tutti coloro a cui il salario non garantisce più una decorosa sopravvivenza. Questa è la segnalazione di Sergio Romano su Panorama di questa settimana. E a proposito di lavoro, io vi voglio ricordare che con il Sole 24 Ore in questi giorni sono in vendita diversi strumenti utili per il lavoro, innanzitutto appunto da giovedì trovate il CD che riassume tutta la manifestazione di Telefisco. Naturalmente prosegue la nostra collana di Azienda Facile, che è una sorta di piccolo manuale per tutte le esigenze d'azienda. Questa volta, questa settimana, parliamo di controlli fiscali in azienda, e poi anche un CD-ROM che riassume tutti gli articoli di norme e tributi e le risposte esperto risponde del 2010. Tutto questo in vendita in questi giorni con Il Sole 24 Ore. Noi con questa segnalazione abbiamo esaurito il tempo per questa mattina. Io vi do appuntamento a domani, domenica. Ringrazio naturalmente Pietro Lacorte questa mattina in regia. Grazie come sempre ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. A domani.